Non è in tutti che lo trovi, capito? Io capisco. Guarda, se ne ha mandato anche un altro, ma ce n'è in vendita, capito? Devi di trovare quello appunto per lo scopo che ti serve a te. Sì, ho capito. Non mi mettete a credere, capito? Ebbè, cocomani, siamo qua, finito di imballare il comodo. Sì, era un bisogno piccolo, dai. Mi aspetta, sto mandando un'altra foto dove lo trovi con e senza. Io, vabbè, ho fatto bene a prendere questo adattatore microfonico, dai. Vedi, blocco il coso, il tasto, parlo a mani libere, non è male, dai. Cappa, poi Luca mi dirà se la modulazione è abbastanza forte o dopo tutto non è abbastanza forte, cappa. Ma è normale, capibile, va benissimo. È normale, non basta, cioè il microfono è a 6. Dovrebbe essere più amplificata. Aspetta che lo provo direttamente. Adesso è a 10, Luca. Vedi se è aumentato oppure se c'è un limitatore in questa radio. Probabile che ci sia anche un limitatore, io non me lo ricordo. Prova di nuovo. Adesso è a 10. In questo passaggio è a 10, mentre prima, appena te l'ho chiesto, ero a 6, come tutta la sera. Cioè, dimmi se è cambiato. Fallo in diretta, Marco. Come? Fallo in diretta perché avevo alzato il volume dopo. Ehi, cioè devo fare un passaggio. Ah, per registrare, provo un po', dai, vediamo. No, perché alcuni di questi apparati avevano due regolazioni, cioè aveva il trimmer della modulazione M, però avevano anche il trimmer del limitatore. E non mi ricordo in quale versione c'era questo trimmer. Erano due in realtà, uno era il limitatore c'è sempre ed era regolabile. Va bene, vediamo un po'. Aspetta, mi devi fare due passaggi, da 6 e poi era a 10. Ok, allora, ecco qua. Ho rimesso il mic a 6 come era tutta la sera. I picchi, vabbè, qua vedo che sale, ecco, da 6 lo porta a 10 direttamente. Adesso è a 10, stesso volume di voce, stessa distanza dal mic, vediamo se ha cambiato K. Pochissimo però, qua nell'analizzatore lo stesso pochissimo. Luca, alza la modulazione però. Me l'hanno regolata stamattina, guarda a vedere, vedi se va bene adesso. Sì, è un po' meglio. Mi ha detto cosa risulta all'analizzatore? Che c'era poca differenza guardando nell'analizzatore della radio. Vabbè, allora probabilmente c'è un po' più di limitatore in questa modulazione. Va bene, allora la porto a 6 come la prima, tanto non è necessario amplificare il rumore ambiente, capito? Sono qua vicino, 1, 2, 3 e a voglia, voglia. E il tono come secondo te, bilanciato? Bello, no, va bene. Cioè non è una radio che è con apertura, con amplificazione, capito, effetto stanza e tutte queste cose qua. Eia, va bene. No, il tono l'ho provato, siccome a 5 di solito è acuto, con l'MB più 5 risulta già acuto, l'ho messo direttamente a 3. E bene o male, col 3009 va bene, col 5.5, quanti ne ha di 5, non mi va bene, con questo sembra che vada bene. Sì, no, va bene Marco. Buonasera. Ah, è già nel caldo. Ah, io a fare un po' di 10, ma adesso non sono ritornato qui. Ciao Gianni, c'è Natalino e Luca. E beh, cosa hai contattato già? Cosa c'era? Inglesi? O roba anche spagnoli? Spagnoli, americani, i dottori. Insomma, l'imbarazzo della scelta avevi, dai. Ciappa, va bene, riprendete voi, io mi sa che vado a fare un bel caffè adesso. Decaffeinato naturalmente, se no finisce a schifio. A dopo, vai Gianni. Non sono uscito stasera, Marco. No già, non ho voglia, sono fisicamente a terra. Vabbè, Mimi, si sente? Mamma mia, vieni con quel pendolo. ce l'ha il pendolo? Marco, quello che suonava a mezzanotte. Marco, vieni qua, poi c'è quel negro che ti si avvicina e ti dice se ne vuoi, bamba. Cazzo, così te ne vai saltando l'acqua. Sì. Quello il pendolo ce l'ha tra le gambe. Il negro sì. Mi spiace. Mamma mia. No, ho provato ad attaccarlo. Era staccato il pendolo, ho provato ad attaccarlo per vedere se lo senti batte. Che questo non amplifica poi tanto, però già si sente, dai. Sentiva discretamente. Dimmi già. Si sentiva forte. A voglia allora, dai. Eia, allora io mi ascolto l'audio che mi ha mandato Luca. Mi ascolto l'audio, vado a fare il caffè. Luca, riprendi. Eia, ci sentiamo più tardi, se no domani atti Natali. Ciao, ciao. Ciao Luca, ciao. Già sono qui io. Avanti già. Eia, va bene, va bene. E allora, Tattalino, non sei uscito? No, negativo, non ne avevo voglia, la verità. Anche se oggi dice che sta facendo una bella giornata, mi stava dicendo la 50. Sta bella però, c'è proprio caldo, si sta bene. Vabbè, io ero stanco, mi sono pulito tutta la casa e ero un bel stanco e dopo pranzo mi sono gugucato. E secondo come va scendo domani mattina a Platamona, me ne vado a prendere un po' di sole per quella vitamina che sto pigliando. È capace che magari scendo anche io col cane, non lo so, adesso vediamo, dai. Mi devo organizzare un po' il pranzo, ma lo preparo un po' da prima, così poi quando torno è pronto. Sì, ho capito. Grazie, che domani se ne ho voglia già scendo e vedo un po'. Ho visto che l'hanno trovato con l'altro sub. Dice a casa d'usaglio l'hanno acciappato. Ahia. È morto, poveraccio. E cosa vuoi con tutti quei giorni che c'era lì? Sì, vabbè, magari si è attaccata alla roccia, qualche cosa si poteva fare. Era completamente nudo. Figurati. Boh, vabbè. È andato a Gussi, poveraccio, una battuta di pesca a capo, va a finire così. Certo che... Se lo incontri, ti aspettavi che mi davanti una mummia. Vivo a capo, sicuro Mario, sì. Oh, non si sente nulla, Natali, si sente più televisore di te. Cosa vuoi, che ti porti a io, mi? Beh, anda così. Sì, così va meglio. E va la giubuccio così. Se no è un macello qui sul televisore, cazzo. Ed è basso, mi, solo che c'è tutta la mondezza si inaccoglie il microfono. Beh, sensibile, capito. Lo so. C'è disturbo? No, è perché disturba, avanti. Buongiorno a tutti, Natalino, se mi senti batti un colpo. Ciao Gianni. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito. Già ti sento io. Piccolo piccolo, ma già mi sento. Sì, a voglia. Se non sento a te ci devo buttare tutto. Cavolo, andiamo bene. E beh già, come va? Meglio Giuseppe, mi hanno operato la gamba, adesso sto bene, dai. Mi sono ripreso al 100%. Meno male, una buona notizia. E tu Natali, tutto bene? Non molto di salute, non molto. Ancora io non mi sono ripreso, non so se mi riprendo. Quindi la salute è quella che è. Adesso andiamo a Lucca all'ospedale. Ho visto, ma a cosa si è operato? Io mica ci ho capito niente. Io penso che sia il setto nasale che ci aveva storto, capito? L'ho deviato del setto nasale, aveva, gliel'hanno messo a posto. Ah, cappa. Perché non riuscivo a capire che cosa avesse avuto. Io credevo qualche problema di vasi sanguigni. Davvero? Insomma, non mi manca mai Giuseppe. Ah, quello è sicuro. E l'antenna cosa stai usando? Se per assurita? Adesso è il bastone di lavare per terra. Come si chiama? La storm? Un ruccio. KK, però aspetta, stazionari a 1000, aspetta un attimo. K, ho capito. C'è anche Marco, Marco. Fatta un magazzino che c***o. Ma li senti la tua lì? Ogni tanto salgono, scendono, boh. Scappa, scappa. L'importante è sentirsi, poi finché la barca va. Vabbè, ma c'è un po' di propagazione, tutta mischiata, è un casino, eh. Oggi è un casino, però sarebbe bello andare verso Barai lì e farsi un po' di ex. Ah, hai voglia, lì già va bene. Scappa, e io mi mettevo lì, mettevo di fronte alla chiesa di Barai dove c'è quel parcheggio e mi facevo di ex. Cavolo, hai voglia tutto aperto lì? Vabbè, cappa. E tu Gesè, il campo è usano lo stai? Sì, hai voglia, eravamo in giro sino all'altro giorno. Ah, bello. Ma l'ho visto parcheggiato, forse è il tuo quello lì, quello che si vede parcheggiato lì, dove dovresti abitare tu, perché non lo so il punto esatto. Ce n'è uno nuovo parcheggiato. No, negativo, io lo tengo giù, non lo tengo in strada. Ah, ho capito, vai. Ho capito, allora non è tuo. Infatti, dovrebbe essere quello di Giuseppe, perché sono andato a passeggiare col cane via Sassari 2 e ho visto quel camper che era nuovo, e quello deve essere Giuseppe. Cappa, sì, ce n'è uno lì in quello sterrato. Cappa, eia. Vabbè. E c'è una cosa bella, là, c'è una cosa bella. Poi adesso siete soli, così è. Tua figlia non ci verrà più con voi. Non ho capito già. Ho detto, tua figlia non ci verrà più con voi, siete soli, andate in giro da soli. No, viene con noi, ha 15 anni, Veronica. È quasi 16, ma viene con noi ancora. Ah, allora già va bene, là. Già va bene. E dove sei andato di bello? Siamo stati a Torre Grande, nella zona di Cagliari, un po' dappertutto, la Maddalena. Già va bene, là. In ferie sì. No, no, il fine settimana. Facciamo il fine settimana, poi quando siamo in ferie ce l'andiamo fuori. Ecco. Già va bene, là, già va bene, è una bella cosa. Tutto è che ci siano parcheggi per camper, perché adesso dice che non si può più andare fuori delle aree, diciamo, quelle attrezzate, là. No, l'importante è che rispetti le regole, poi il camper è come una vettura. Che tipo di regole ci sono? Non si possono aprire i finestrini, tutte queste cose qua. No, ma puoi aprire il dettaglino, vabbè, solo puoi mettere i tavoli fuori, però mangi dentro ed è la stessa cosa. Cappa. E invece ho visto che alla rotonda c'è sempre un camper che si ferma, si siedono tutti fuori, col tavolino, tutto fatto di vista, ma il giorno che li beccano. Ma quando è così non disturbi nessuno, non è, passano, si vedono, ma si vede la gente quando è il vero camperista. Cappa. Andare. Avanti Natali! Cappa, mi ero spostato, sono andato in cucina, siccome io cammino piano piano, quando mi avete chiamato ci ho messo un po' a arrivare. No Natali, stavo parlando con Giuseppe, quindi non ci siamo ancora resi conto, va. C'è anche Marco! Marco si sta prendendo il caffè alla faccia nostra, altro che. No, io ho questo colpo della strega che mi è venuto, mi sono piegato, deve essere a freddo e mi ha ammazzato. E paghi su, il cammino piano piano. Oh, yeah. E anche a me era venuto una volta, sono entrato a freddo e mi hanno detto guarda che manca il latte, già vai giù a prenderlo. Ho preso la pedala del latte col traspar, come stavo pompando col traspar mi sono bloccato, non mi vedevano più salire su e io l'ho bloccato giù, non riuscivo manco a muovermi. Sì, ero un grido, a un ganzo di... mi sono occupato, mamma mia. Mi sono bloccato proprio e mi fa un male il cane, sono già 3 giorni così. Un attimo che cambio radio. Che cambia radio. Giuseppe. Eccomi, ho cambiato un attimo postazione perché con l'altra antenna mi parte la sirena dell'allarme. Ah, ho capito. Eccomi qua. Propagation c'è. Lo vedi tu ascoltando già? Sono andato sul canale Monitor, dai, e ho parlato lì, poi ho girato e sono venuto sul 10. Sono andato io e non c'era nessuno quando sono andato io, dai, non lavoro, non riesco a beccare niente. Allora sono 55. Vabbè, io, anche io sono passato lì. Sul presto era, però non vedo nessuno, per quello. Se non mi sarei intrattenuto lì. Cava. Vabbè, Giuseppe. Sì, eccomi. Ho dovuto cambiare. Cazzo, mi sta partendo l'allarme della casa quando schiaccio il PTT. Aspetta. E vuol dire l'entra l'allarme, ero va di bacchino. Ma anche questo è molto importante. Forse perché c'ha l'antenna vicino, capito? E allora gli entra. E lo facevano partire anche Umberto da, come si chiamava quel negozio di abbigliamento che vendeva navigare, non me lo ricordo, navigare. Passavi lì con lineare, tacca, abbassavi la portata e si accendeva l'allarme. E una volta mi è successo a me. Stavo parlando, ma presto, verso le 7 del mattino, cata. Stavo parlando con quello di Alghero, con Cristal. Stavo parlando. Cazzo, che c'è importante si accende l'allarme di rubare Europa. Tutti affacciati alla finestra. Mamma mia, Giudice. Chi è entrato? È entrato Giuseppe Tornado. Ciappa. Vediamo se lo copia. Attenzione Giuseppe è tornato, se mi copi. Aspetta che sta armeggiando, che entra nell'allarme e lo fa avviare l'allarme. Quando lui parla scatta l'allarme. Eia. Oh Gianni e Natalino, ditemi se c'è saturazione. No, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, va bene. Cosa si è attaccato? Stavo vedendo se col microfono è attaccato e c'erano inneschi con l'MB più 5, no, invece no. Quindi né inneschi né saturazione né niente, ok, va bene. Hai provato l'apparato giusto? Ti posso chiedere un caffè? Marco. Sì. Eia. Adesso voglio provare col macchine a manetta il 3009. Aspetta che attacco lo spezzone. K. Mi adesso ho attaccato il 3009, Marco. Come va? Sta andando sempre bene. Ero da un bel che non l'attaccavo. E con che microfono? Con il Midland. Ma quello che mi avevi detto in offerta, F10. F100. Eia. Ma è quello con l'eco, ma lo puoi escludere, sì. E perché l'eco c'è adesso? No. E adesso, guarda. Adesso sì. Ah, c'è un interruttore, ok. No, c'è il cursore, come l'M300. Eia, appunto compreso, da. Io sto usando l'MB più 5, visto che è sempre fermo. L'ho attaccato ieri alla, a quell'altro apparato simil natalino, no? E oggi all'altro, il 7009. E ho notato che non spinge più di tanto, come se comunque ci fosse un limitatore, perché c'è sempre comunque un limitatore. E quindi lo lascio a 6, non è necessario alzarlo, perché sarebbe inutile, di più non va. Oh, sta andando con la manetta. Ehi, che male che stai uscendo, No, no, Natale, c'è qualcosa. Che microfono gli hai messo? Stai innescando? Uscendo di radio e sta innescando. Ma forse gli ha messo un mic diverso, non quello di serie. Gianni. Eia. Ma non è che gli stanno mettendo portanti a Natalino? No, no, sta uscendo con un innesco, Giuseppe. Era limpido sino a poco fa. Ma ha fatto una prova, ha messo il mic gain a manetta e ha aggiunto lo spezzone, non so che cosa sta facendo. È una prova che stava facendo, dai. Perché Marco, male sto uscendo con questo microfono? No, già, era giusto per saperlo. Ma tu puoi fargli qualche cosa, puoi escludere le resistenze a quel microfono col ponticello, ti fai due ponticelli, una gazzarda, l'ho fatto io. Ega, no, ma non è necessario già, non voglio avere modulazioni spaccatimpani, deve essere anche un po' rilassante, sennò non va. Natalino, prova, vediamo. No, l'ho rimesso a questo qui. È strano che mi faccia questo difetto qua. Ma l'altro microfono che ho messo cos'era, Natalino? MB più 4. Forse come tu hai escluso le resistenze lì va troppo forte, no? E pompa troppo e ti fa quel difetto lì. Cioè Natali, tu cosa hai fatto? Hai detto che hai messo il mic gain dell'apparato a manetta, quindi dal menu l'hai fatto? Che cosa? L'MB più 4 l'ho messo nel 3009, è il 3009 che innesca. Ah, ho capito, strano però, 3009 è abbastanza accorazzato, boh. Sì, un innesco forte peraltro, è proprio un rumoraccio. Giuseppe è tornato, mi copi? Appagatta, forte e chiaro. Per via del quaderno ho messo, un po' di aiutino, dai, male non fa. Tanto con tutti i metri di cavo che ho perdo una parte dei watt, quindi per compensare mi lo faccio. Giuseppe, se ti capita che senti qualcuno, sto dando due antenne Turbo 2001, una nuova completamente e una con la base, usata ma buona, già tarata e tutto. Mandami qualche coordinata su WhatsApp, sia dell'una che dell'altra già. Sono quella che ti ho, come quella che ti ho dato a te, la Turbo 2001 è. Una è praticamente con la base e quella la stanno 40 euro e poi con la nuova la do 50. Cappadatta. Se c'è qualche camperista a cui serve, capito Giuseppe? È positivo, niente di strano che possa servire a me direttamente. Adesso fammi fare un giro di conti. Quella con la base. No, quella con la base. Dai, è quella già tarata, è 1-1 di stazionaria. Proviamo Natalino, sta facendo una prova, così lo registro e glielo mando. Prova Natali, prova a parlare. Fischia, di brutto anche. Aspetta, riprova che ti registro un attimino. Vai. Forte innesca, forte. Non si capisce la radio, non si capisce. qualche oppa. Te l'ho mandato Natalino, vabbè. Se tu ti accorgi di quanto è forte la distorsione, cioè è proprio sovramodula la modulazione, chi ci è rimasto? Io ci sono rimasto, io, c'è anche Giuseppe. Avanti Giuseppe. Magari sta spazzolando, anch'io sentivo silenzio, stavo per fare un giro i canali, vedere com'era la propagazione, vabbè, non che debba fare di ex, che non aggiugana. Mandronia go go. C'era qualcuno sul fondo che diceva attenzione, avanti. Chi è che chiamava? Io ho sentito un segnale Santiago 6 Radio 0. C'è il QRM 5 e mezzo, lui era 6 ma Radio 0. Basso. Ma no. No, ma l'ho voluto anch'io, ho detto, ma non sarà Emanuele da Fiume Santo in baramobile, no? Non so nemmeno se ce l'abbia il baracchino in baramobile. Ma chi Emanuele? Ginko. No, non ne hanno. Almeno che gli sia venuto lo scrivizio adesso, ma non ne avevo. No, poi Fiume Santo per me dovrebbe essere a vista. Ho detto l'anima, poi non si sa, bisogna vedere. Bisognerebbe fare prove. Poi una cosa già, questo è un tema, sì, ha quasi 9 anni, però la bobina, secondo me, se la vai a vedere sarà nera. Dall'ossido, sarà nera, secondo me l'antenna, anche se intera, un po' sta decadendo come ossidazione, come invecchiamento normale, no? Soprattutto la bobina. Ma a te ti sta durando un mego l'antenna, ti è durata molto, perché a molta gente ha dato problemi, invece tu devi essere piazzata bene, non ti ha dato nessun problema. Praticamente le abbiamo fatto il bagno nell'auto vulcanizzante, non tutta, no, però i punti proprio generosamente, proprio furia dura, anche andando oltre il giunto, bene, da, capito, bobina lo stesso, insomma, tutto l'isolabile l'ho isolato, sai perché già, è una natura di balle mia andare dopo un anno su in terrazzo e entra acqua da lì, poi devi risalire dopo un anno, entra acqua dallo spinotto, poi risalire dopo un anno, o non hai stretto bene il radiale, magari ti vuole un radiale, è una rottura, mi. Ti ho detto, questa si piazza e deve rimanere lì finché non si spacca del tutto, non andare ogni volta a controllare questo non va, capito già? Poi il terrazzo se non è mio. E così ho fatto io, ho messo vulcanizzante, poi sopra vulcanizzante un nastro di quello buono che ho comprato da Fusaro, per stringere bene il vulcanizzante, poi il nastro, vabbè, con l'onda del tempo se ne vola, si secca la colla e vola, però intanto ha fatto il suo dovere, l'ha stretto bene il vulcanizzante rimane stretto e non rompe le scatole, capito? Esatto, già, esatto. Ho messo il vulcanizzante sopra il nastro, ma perché? Per dare tempo al vulcanizzante di rapprendersi, no? Di fare presa bene, poi il nastro isolante se ne vola, sì, quello è vero. Infatti non va mai messo un nastro isolante buono, non avrebbe senso, perché poi la colla si stacca, eccetera. Vediamo se è entrato Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Sì, eccomi qua. Mi sono assentato perché hanno suonato al citofono. Lega, stavamo parlando di vulcanizzazione di antenne. In effetti già, per l'antenna di plastica che è, perché è un'antenna di plastica, sta durando anche troppo. Guarda, siamo ad aprile, a maggio di quest'anno fa 9 anni, io non gli avrei dato più di 2 anni di vita. Buono Giuseppe, con Marco, è buono come... Io la Mantova 5 l'ho avuta 15 anni mi pare, poi vabbè, se volevo la riparavo, ma mi ero stufato di mettere i radiali, fare questo, fare l'altro, l'ho tenuto e abbiamo preso la Game Master, ma da... Natalino, male, innescando forte, guarda il video che te l'ho mandato. Oh già, ma quella Game Master poi, che cosa gli avevi fatto fare? Che cosa gli avevo fatto fare? L'ho regalata, Giuseppe, l'ho regalata a un amico, e non se l'ha ancora piazzata. Se l'ha aggiustata, gli ha cambiato praticamente ha trovato uno che gli si era rotta la bobina e aveva problemi alla bobina, insomma gli ha dati i pezzi che si erano rotti a me, gli ha dati nuovi, lui se l'ha rifatta, capito? Ma e a te che problemi ti dava? Era buona come antenna. Che problemi? Il colvetto si è troncata due volte. Cavolo, andiamo bene. Pagata 200 euro profumate, capito? 200 euro. Allora costava così, adesso magari costa meno, però allora costava così. Era innovativa come antenna, quindi l'ho voluta provare, ma ho fatto una cazzata. Cioè, come antenna andava bene, mi capisci? La struttura che era... Perché chi lavora è l'interno dell'antenna, perché c'è un cavo che passa all'interno, è tipo un dipolo verticale, capito? La struttura era debole. D'accordo, ma struttura fatta di vetroresina. Sì, vetroresina. Si è spaccata, praticamente l'ho accorciata, l'ho reinserita, ho messo due tre fascette per bloccarla e si è rotta da un'altra parte. Allora quella è nata male. Non è solo la mia, no, ce ne sono rotte tante, capito? Non è solo la mia. Se tu vai a vedere il forum c'è molta gente che si lamenta di questa antenna che gli si è rotta. E con le fotografie dell'antenna troncata pure. Natalidi, portante stai uscendo. Controlla, casomai scegliamo un canale a parte. Parliamo tramite WhatsApp. Già, ma secondo te quel problema che ha dato a te o anche agli altri non sarà perché hanno teso il cavo interno, no? Perché non va mai teso, va lasciato un po' morbido. No, non era teso. C'è la lunghezza giusta, capito? C'è la lunghezza giusta perché poi va bulonato e non era teso, era messo normale. Non era molle, però non era manco teso, perché bisogna lasciare uno spazio, perché quando flette l'antenna poi lo tira il cavo, se no te lo strappa, devi lasciarlo un po' molliccio, dai. Purtroppo antenne perfette non esiste l'antenna perfetta, per esempio anche quella costosa americana in fibra di vetro, come si chiamava là? Che costava lo stesso 200 euro e tanti. Indistruttibile invece poi a uno col maestrale gliel'ha rotta, a uno con la bora gliel'ha rotta, cioè non esistono antenne indistruttibili, ti può andare bene come ti può andare male, capito? E poi a casa tira il vento, quando c'è un maestrale è forte, infatti gli ho messi i tiranti dicendo ne ho messo un bel di tiranti, e invece ci vogliono, perché una volta che io ne ho messo quattro e quello dietro non l'ho messo, me l'ha troncata proprio dalla parte di dietro, perché ha girato il vento proprio dove non c'era il radiale, il tirante, e me l'ha spezzata, capito? Mi ha piegato il tubo addirittura. Figurati, sì, diciamo, tu hai il mare di fronte, quindi il maestrale posso immaginare, io diciamo, l'antenna è esposta, però io sono già più interno, che ne so, magari il grattacielo in fondo qualcosa fa, magari il palazzo di Viale Umberto, di Viale Trento che c'è, quello un po' più alto, magari un minimo di schermo lo fa, per quanto l'antenna poi sia esposta a pieno, però tu sei proprio fronte mare, il mare ce l'ha di fronte, e quindi lì arrivano raffiche terrificanti, un po' come faceva a Cosomi, a Sandro Tigre. Qui Sandro proprio usciva da casa e c'aveva il mare, ce l'aveva proprio attaccato, quello è ancora peggio. Quello aveva dei belli apparecchi, che peccato che non sa più modulare. Credo che abbia cambiato casa, così avevo capito. E la IMAX 2000 americana, la vedevano senza radiali, addirittura i radiali erano opzionali, però penso che una 5 ottavi necessiti dei radiali. La conoscevi, Giuseppe? No, la verità ti dico no, però la mia, la mia vecchia antenna dove abitavo prima è ancora bella dritta in piedi. L'antenna è un peccato, è giusto, l'antenna vorrebbe recuperata. Lo so, ma non ci voglio andare, già se la prendono dove non ci tocca sole tutti quanti. Ho capito, dai. Peccato, perché quell'antenna lì non si trova più adesso, è andata una pulita, quell'antenna è buona, non l'hai sfruttata nemmeno molto. Ma sai che ogni volta che passo la vedo ed ecco il primo giorno che l'abbiamo piazzata. Perché poi tu l'avevi fatta col muratore, mi ricordo, era stato fatto un lavoro come si deve, dai. Cappa, cappa. Quella non si muove da lì, Che... al chilometro ne volevo parlare, c'è una vita lì, avanti. Stai uscendo lo stesso con l'inneschi. Oh, Nathalie, ho notato, o c'è l'innesco o esci Radio 1. È bassissimo. Che cacchio è successo? Microfono normale rimesso, no? Questo è il microfono normale. Male, male, molto male. Non lo so cosa cacchio è successo. Mamma mia, Nathalie, come stai uscendo male? Cavolo, allora cosa c'è? Qualcosa che fa contatto nella presa microfonica, boh, dentro, che ne so io. Era perfetto quell'affare. Nulla, innesco puro. Ma questo è solo quando li mette l'MV più 4, così è. Ho capito l'originale, ho capito la parola originale. Cioè glielo fa anche col mic normale adesso. Il cavolo, ma guarda Nathalie, l'innesco è fortissimo, da spaccare le orecchie, fate deleterio. La stazionaria come ce l'ha Nathalie? Nulla. Cavolo Nathalie, manco io che sto uscendo col cavo dell'aspirapolvere e faccio tutto quel casino. Giuseppe, mi hai ricordato quell'aneddoto per cui qualcuno per modulare magari non aveva l'antenna, dice che con l'accordatore riusciva a accordare la rete del letto, ma vera sarà questa storia? L'ho sentita anch'io, ma chissà se è vera. Ma cosa, ui. Sì, l'ho sentita anch'io, sapevo anche chi era che l'aveva detto. Almeno che avessi un accordatore di quelli buoni, che ti accordano anche i chiudi. Quelli manuali, guarda, quelli manuali hanno più range di accordatura, come era lo ZG quello grande, quella scatoletta grande però, non quello da macchina, quello ti accordava anche l'inaccordabile, se ti fidi te l'accordava davvero la rete del letto, oppure lo stendino, quelli in metallo, no? Però invece, per esempio, l'accordatore automatico tipo dei Kenwood, quello c'è un range limitato, penso che fino a 2 o 3 di stazionari accordi, però se sono più alte non accorda. E io quando vado... Se attacco 100 watt, se attacco l'apparato che da 100 watt, mi fa andare le stazionarie a gogo e non riesco a accordarlo, niente, perché in banda laterale non fa accordare. Ma hai detto in macchina? No, a casa. E come mai? Scusa, se l'antenna non ha stazionarie, come fai a avere le stazionarie? Allora c'è un problema di impedenza in uscita, che ne so io? Non ha stazionarie le 40 canali, ma se tu vai oltre potrebbe anche avere le stazionarie, no? Ah, intendi quello. Però già, conta che la tua antenna c'è una larghezza di banda buona. Persino questa, mi pare 26,2, 28,2, più o meno, facendo i calcoli, vabbè. 26,2, 28,2, le stazionarie sono ben al di sotto del 2. Tipo 1,6, 1,7 con 10 watt, 5-10 watt, non di più o meno, misurate così. Tipo 1,6, 1,7 massimo. Se aumenti sì, per esempio sulla tripla 5 fai che c'hai, che io ci abbia 1,1 col 1,1 con 4 watt. Magari ne metto 50 o 100, ti aumentano poco, tipo 1,3, 1,4, ma è assolutamente trascurabile quello. Vi faccio una domanda. Vai. Allora, io nel camper, nel parafango destro, ho l'attacco per l'antenna, però Gianni ha l'attacco fino, la filettatura fina, che antenna ci posso mettere? Non lo so come sia l'attacco, Giuseppe, fino in che senso? Quelli a farfallina? C'è Luca Flipper che le sta vendendo, ci sono le frusta nera stava vendendo, sono senza, però senza la base, senza la basetta, c'è solo lo stilo sta vendendo. Perché io l'attacco, ti ricordi la PLC? Sì. Ho l'attacco fino però, non come, come diciamo la normale, quella che avevo nella macchina, la filettatura larga, è più fina. Ah, quello sempre come l'attacco della PNC ce l'hai. K. Non lo so, non te lo so dire. Ho capito, tu stai dicendo, è tipo quello anche del... però c'ha il perno che è fino. Infatti. Le allarghi il buco e li metti la farfalla Oh, è vero, Allora io mi ricordo negli anni 90, 80-90, io mi ricordo l'attacco LEM era di un certo tipo, quello tipo boomerang, no? Per le antenne piccole che mettevo io. Quell'attacco Sirio era sempre a farfalla ma diverso, addirittura era a doppia scanalatura, come dire, non era solo una parte di sinistra e di destra che si univano. Poi quello Intec addirittura un'altra scanalatura, sempre a farfalla ma non erano compatibili, a meno che non forzavi, non mettevi qualche dado più vite, ma era una raffazzonatura, capito? Ed ero scocciato per questa storia perché non potevo intercambiare praticamente gli stili con la stessa base, capito? Vai Giuseppe. Sì, infatti, perché io la turbo, ti ricordi quella che mi avevi dato tu Gianni? E non riesco a mettercela. E prenditi quella che c'ha l'attacco e tutto e ti metti quella lì, ti rotoli dalla base e ti metti quell'attacco lì, ti prendi quella che c'ho io. Oppure quella nuova direttamente, ci metti l'antenna nuova e via. Adesso vedo, perché non riesco a trovare dove è agganciato, probabile che debba togliere la copertura che c'è nel parafango davanti per arrivarci. Tu basta che sviti la vite che c'è sotto e poi li metti l'altra, non è che ci siano problemi. Lo so, però non ci arrivo a svitarla. Ah, ecco. È un bel casino, dai. Infatti ho provato da dentro, però da dentro no. Quindi bisognerebbe togliere la copertura che c'è nel passaruota. Ho capito. Se no prendo il seghetto, la moletta. È l'unica, così ho fatto io nel gabinetto. Dovevo cambiare la parte di sopra, il coperchio, e non riuscivo, non svittava in nessuna maniera, ho provato in tutte le maniere, ero tutto sudato, alla fine mi sono rotto le scatole, l'ho alzata appena con la moletta, aggiudagliando e via. E l'unica è volte, avanti Marco. Vediamo se Natalino ha risolto. Natalino, ci sei? A meno che non si sia spostato per fare le prove. Ecco perché Gianni, io tornando al discorso antenne, perché ho preso le basi magnetiche o l'attacco PL? Perché almeno ho tutte le antenne PL, le antenne CB, almeno quelle più usate, tutte attacco PL. Ci posso mettere l'antenna VU, attacco PL, ne ho tre di quelle lì. Per ascoltare naturalmente, io non posso modulare. E volendo anche l'antenna HF per ricevere col ricevitorino HF tutto attacco PL, una base, o meglio due basi se ho al momento, e posso usare tutte le antenne mobili. Ciao. Ma io nell'attacco della LEM che ho io, della Turbo 2001, va bene anche la PLC 800 e viceversa, capito? Quindi potevo attaccare tutti e due. La PLC regalata è una persona che mi serviva e mi sono tenuto, e l'altra l'ho regalata a Giuseppe perché non avevo più intenzione di metterla in macchina, poi mi è venuto in mente di metterla di nuovo e via, e l'ho piazzata di nuovo. Ega, credo che ci sia Natalino che non ha risolto ancora. Natalino, no, nulla. Prova a togliere il microfono e reinserirlo, che ne so, magari niente. lì non è che può fare contatto, i fuori sono quelli, sono in linea, non... Natali, controlla che non hai spostato qualcosa nel baracchino magari. No, è qualche falso contatto che c'è, non è possibile, se no non l'avrebbe fatto con tutti i due microfoni. Il Mikey Gain che c'ha qualche problema, il cursore, il potenziometro del Mikey Gain, oppure il filo all'interno che sta toccando. No. Cavolo, era chiaro chiaro poco fa. Se passi a casa ci prendiamo il caffè e te le faccio vedere. Però non in questi giorni già, perché ho gente a casa e niente di strano che me ne balzino già da questo pomeriggio e sto temendo quello. Ahia. Parenti? Cavolo, sempre, e sempre i momenti più belli, Ho detto parenti sono. Cappa Marco. Quelli che temo io sono i parenti, maggiormente, quello è il terrore mio. Posso fare a meno perché è parte di mia moglie, quindi bisogna stare. No, Natali, stai uscendo basso con l'innesco forte. Natali, gira, ti conviene rimettere quello nuovo e quello lo ricontrolli con calma. Provando a spegnere, a muovere il potenziometro della modulazione indietro, tutto indietro, tutto avanti, che ne so, non so se non hai spezzoni in perdita, no? Tipo. Prolunghe microfoniche, no? Cavolo, andava bene l'apparato, boh, come l'ha provato? Ha provato l'MB più 5 là. Lasciavi daddo. Natali, controlla il tostapane se è attaccato, magari è quello. Lì all'interno c'è qualche cosa che non va, l'attacco microfonico sicuramente, perché se lo fa con uno e con l'altro, fosse stato solo con un microfono avrei detto pilotato il microfono, ma non è possibile. Lì all'interno o è il Mikey Gain come tu l'hai toccato, l'hai mosso e ti ha dato problemi. Spruzzali appena appena di quel per contatti sul cursore sul potenziometro del Mikey Gain, magari è quello, c'ha qualche cosa di polvere, Guarda che io stavo usando il 3009 e stava funzionando sempre bene, hai capito? Mia Natalino di nuovo. Adesso si è uscito bene. Ma va, è l'altro, non è il 3009, vedi casini, gatti. Se riesco a far fuori questi due, perché mi sono stancato e avevo una mezza intenzione di mettere un qualcosa di base, però Bisogna fare delle prove col 3009, però pare strano. Cioè, metti un mic, fischia, lo levi e continua a fischiare. Si farà con calma, Natali. Domani, Oggi è sabato? Sabato oggi è. Cazzo, il 3009 non mi ha fatto mai nessun difetto. E domani è domenica, allora amici, ci passiamo la serata a fare prove. Casomai, siccome non ti sento io di radio, ci contattiamo con quell'applicazione Midland CB Talk lì. Almeno riusciamo a parlare. E poi fai le prove anche con l'apparato, capito? Il microfono, controlla quelli se toccano, se c'è qualche cosa che tocca. No, il microfono originale ho messo, quello da palmo, e me lo fa ugualmente. Sì, Natali, ma se è dall'interno te lo farà sempre con tutti i microfoni, se il problema è dall'interno lo fa con tutti. Se fosse stato microfonico il problema sarebbe stato risolto subito, magari era allo spinotto o cose del genere, ma sicuramente è dall'interno. Natali, non è che per caso la presa microfonica ti balla? Ma non penso. No, perché per dire, sul 3009 una volta, le prime volte che, quando l'avevo comprato, c'era la ghiera che tiene il PL, femmina, un po' mollata, non era stretta bene, capito? E ballava un po'. E lì può portare lo stesso a problemi quando avete il PL, poi ti si muove tutto. Vai Giuseppe. E Giuseppe deve essere impegnato. Ah Gianni, a proposito di polvere, ti ricordi il KPO che mi dava scarica? Ho detto, ma era nel cassetto. Allora guardo il cassetto, ho detto, ho passato un pannetto scuro, sai quei cassetti generici, quelle cose a torre in plastica, dove metti anche la biancheria, io ci ho messo le radio, perché non so più dove metterle. E insomma ho passato un pannetto scuro, c'era questa polvere microscopica più sottile del borotalco. E devi vedere quanta ce n'era, cioè nota il cassetto chiuso, magari ci avrà, che ne so, un decimo di millimetro di tolleranza, no? di fessura, e beh, è entrata la polvere anche da lì. Ecco perché quel Mike era tutto un po' così, si era un po' intozzato, ho dovuto spruzzare prima l'aria spray e poi il desossidante nel KPO. E anche io ho fatto così Marco, ma la polvere passa da tutte le parti, si inserisce nei minimi passaggi, si inserisce lo stesso, fino alla polvere va da tutte le parti, si sa, quindi può essere successo anche quello che magari si è entrata un po' di polvere e gli abbia causato quel problema, ma lui si dà subito per preso, basta aprire il coperchio e controllarlo. Io naturalmente per precauzione avevo soffiato sia il PTT sia lo slider, prima con l'aria spray, con la bomboletta, no? Ma appena, tanto da farlo andare via, e poi il CRC, e vedo che si è ripreso come, non solo, ma anche l'Intec 5005, il mic originale, lo stesso, aveva quel problema, scariche continue. Beh, gli passo il CRC, quello Dreyot, tornato come nuovo, incredibile quel prodotto. Vai. No. Di nuovo basso, non è più forte come prima. No, e quando lo sento, c'ho il volume basso, sì, è inascoltabile, non lo sento e non esce di radio adesso. Allora, o non esce o innesca, Natali. Allucinante. Allora. Prova a mettergli quello che ti ho detto, Natali, nel potenziometro. Non è retta un manco. Sento come delle scarichette, delle microscariche. Natali, ce l'hai un palmare? Un altro microfono ulteriore palmare compatibile? Non sento quello che dice già. Prova a girarlo da una parte e dall'altra il macchinino. Prova a girarlo da una parte e dall'altra per più volte a vedere se riesce a togliere la polvere che c'è all'interno magari. Sì, ma se lui fa la prova, cioè almeno a provare, spruzza l'aria all'interno dove c'è il potenziometro e poi gli mette lo spray per contatti. E vediamo un po' se è quello lì, magari il potenziometro che c'ha appena di polvere sta dando quel problema lì. Però caspita, cioè, come è attaccato il mic? Perché il giorno prima, quando l'ha usato? Mi pare ieri, 3009, quando era perfetto, come gli ha attaccato il più 5? Ecco perché io dico di non fare modifiche di lamelle, non sia che li stai sparando, non lo so, talmente tanta cosa che possa fare danno al transistor di modulazione o altro, non lo so già. Il Galassi è delicato su quello, sul modulatore è delicato, infatti mi hanno sempre detto di non mettere amplificati, ma io non ci sento all'orecchio. È vero, tu mi pare l'avessi portato da Fabrizio, no? Te l'avevamo messo a posto. E via. Però io sono già, secondo me, se tu metti un amplificato normale, senza lamelle aumentate per avere... andava benissimo, poi stava mandando a portatore, dice, macchina, mi ha chiamato, questo qui è l'apparato tuo, come sta andando? Benissimo, Vittorio, bravo, l'hai messo a posto bene, là. Sì, sì, sì, no, non era questo, non l'altro, uno dei tanti che ha avuto. Eia, no, vabbè, ho sbagliato, con Vittorio, mi sono sconfusionato, là, credevo fosse lui. No. Avanti, Giuseppe. Eia, già. No, io se ci riesco, non adesso, ma ho una mezza intenzione di fare piazza pulita e mettermi una base, uno e basta. E ma base come? Base, se riuscivo a procurare di nuovo il Saturneco che avevo prima, era un gioiello. Quello io te l'avevo venduto, non me lo ricordo più. Non me ne ricordo manco io, già, a essere sincero. No, forse la buona leva di Pierpaolo te l'aveva dato. Non mi ricordo, guarda, è passato tanto di quel tempo, però era bello come apparecchio. E io ce l'ho ancora. Buono. Non si riesco a trovare qualcosina e niente. Elimino questi due e metto solo quello. Ce n'è uno su internet, 200 euro, ma senza microfono e senza le manopole laterali. Villo. Cazzo, che macabro questo orologio. Arriva Dracula. No, macabro è a mezzanotte quando spegni tutto, non è buio. I quindi non si lamentano di questo zocco feo. No, non si lamentavano, però è basso, mi non crede, già sembra forte, ma è basso. Poi io in realtà l'ho disattivato quell'orologio, perché la meccanica sta andando male, io gli fermo il pendolo, gli scarico le molle, basta, non lo stiamo più usando, è ancora lì per bellezza, ma la spiega basso, Ecco. Così l'ho rimesso come prima. Vai, Giuseppe. Mi ricorda dove abitavo prima, a piano terra o al primo piano c'era una famiglia che ce l'aveva. Cazzo, ma quanto rimbombava a casa. Poi, allora questo è piccolino, no? È piccolino. Quello antico che avevamo, Gianni, che era di Gio Salvatore, cioè di nonno, del fratello di nonno, forse anche più vecchio ancora, quello era grande, quello era... Cioè, devi vedere la dimensione della mola, quello era spettrale, non era così questo lavoro, senti, tant'è che quelli di sotto si erano lamentati, ma quello veramente lo puoi usare in una villetta quando sei da solo, ma in condominio no. E poi si era rotto perché era una cosa antica e magari nessuno ne aggiustava, e pazienza. Il mio terrore era che se ti capitava di girarti nel letto a mezzanotte, cazzo, te li prendevi tutti in pieno, Sì, a mezzanotte è bello perché fa tanti ed è anche, sai, l'atmosfera la notte, per quanto io sia notturno, sono un animale notturno, ormai sto facendo tipo quel film di Quentin Tarantino, già, dal tramonto all'alba. No, io mi ricordo anche il cuculo, è quello che conoscevo. C'aveva il cuculo e quando scattava allora faceva cucù, cucù, cucù. Quello l'ho sempre voluto, lo sai. Però col cucù, non con quelli, ci sono quelli che hanno quelle figure in costume che escono, no? Che fanno il giro. No, io volevo con la cucù, però non ne ho trovati buoni. E ormai non ne fanno più, fanno quelli elettronici, ma sono delle schifezze già. Peccato. No, questo qua si apriva la porticina e usciva l'uccellino. Quello era bello, però quelli meccanici, quelli di decenni fa. Adesso c'è qualcosa che fa il suono di cucù, ma è digitalizzato, è bruttissimo, roba cinese, Una volta erano belli, e ti dico che costavano pure, quelli belli artigianali. Quello che aveva mio zio, di cucù nelle catenelle, aveva le pigne. Sì. Quella era la corda, mi pare, no? Si tirava quello per dare la corda. Però questo che c'ha Marco è spettrale, se suona a mezzanotte ti caghi sotto. No, non credo, già. fossi in un castello di quelli, sai, tutti strani, antichi. Se guardi quello che guardo io la notte, cazzo, roba da assurdo di bigli. Mi sta sempre prendendo di più questa storia qua. Sono entrati in questo castello antico per fare l'ispezione, no, per vedere cosa. Oh, si sono sentiti anche male e prendevano gli spiriti, si prendevano la, come si chiama, la forza dalle persone, capito? E si caricavano da loro per poi magari aprire le porte e fare casino, cazzo, cioè una cosa divina allo zuzzo. Tu l'hai visto già, quelli sono due ragazzi e una ragazza? Sì, io li guardo tutti, Giuseppe, li guardo tutti, Mauri, l'altro, poi c'è l'altro, come si chiama, la famiglia del paranormale, eccetera, eccetera, li guardo tutti. Allora hai visto anche la puntata del sanatorio, quando sono andati la notte si sono dovuti